9 in punto, la versione di Oscar. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Buongiorno cari ascoltatori, buon 3 maggio e auguri a Filippo e Giacomo per chi rispetta il calendario liturgico. Il tema del giorno è riproporre per l'ennesima volta qualche riflessione, ma aggiornata con quella di ospiti molto più autorevoli e competenti di me, intorno al tema che dopo 5 mesi e mezzo è venuto finalmente al pettine nel governo di emergenza Monti, e cioè il tema di porre mano a quella che si chiama la spending review, cioè una revisione della spesa pubblica, poiché con oltre il 50% del PIL e con una pressione fiscale record al 45%, che diventa 55% sull'Italia legale, cioè al netto dell'inclusione del ciò che l'Istat calcola nero nel denominatore su cui si fa la frazione, cioè il PIL, certo non bisognerebbe essere così provocatori come il Presidente del Consiglio continua a dire nelle sue stizzite battute nell'indicarlo come il problema numero uno per la crescita italiana. Quando dico problema numero uno, intendo che la media della pressione fiscale e della spesa nella stragrande maggioranza, non in tutti i paesi dell'Unione Europea, è considerevolmente scesa negli anni pre-crisi rispetto alla nostra, che è sempre salita. Quindi noi attualmente siamo con 5 punti di PIL di divario aggiuntivo rispetto alla media di pressione fiscale dei paesi dell'Unione Europea. Questa componente di aggravio resta, anche comprendendovi poi l'esplosione di spesa e di deficit pubblico negli altri paesi maggiore che da noi, e gli innalzamenti fiscali deliberati nelle manovre di rientro degli altri paesi. Quindi noi intanto partiamo da questo bel blocco accumulato negli anni da una politica disastrosamente irresponsabile, in questo Monti e i suoi non c'entrano, che negli anni, per 20 anni, ha sempre aumentato la spesa corrente, la pressione fiscale, la bassa crescita italiana, che precede l'euro, non si deve all'euro e non si deve alla globalizzazione, si deve a questa cosa qua. Dopo 5 mesi e mezzo siamo all'individuazione di tecnici esterni da un governo dei tecnici per mettere mano a questo capitolo delicatissimo, perché l'Italia degli interessi e dei partiti puntualmente riesplode. E adesso Enrico Bondi, che io conosco da quando sono ragazzino, che stimo incommensurabilmente, che è un grande tagliatore e risanatore di imprese in difficoltà, Montedison e Parmalat, è diventata giustamente nella storia italiana la specie di insegna dell'infamia a cui può giungere l'improntitudine di imprenditori che truccano i conti e disastrano uccidendo storie di imprese. È arrivato Enrico Bondi, ha fatto benissimo in entrambi. Enrico Bondi però, per me che lo conosco e non posso essere sospettabile di pensarne male, perché puntualmente gli ho mandato un sms: lavoro gratis se vuoi ingegnere, Enrico Bondi di bilancio pubblico non ne sa niente. E questa è una piccola particolarità, perfettamente van bene i galantuomini, ma forse di gente che conosce il bilancio pubblico, lo ha studiato da anni, ne conosce gli andamenti comparati voce per voce rispetto agli altri paesi che hanno inciso per punti di PIL con meno pressione fiscale, si sono rilanciati prima della crisi, dalla Svezia alla Germania, con storie, ordinamenti e caratteristiche politiche diverse, ma questa è la strada che hanno battuto. Forse, ecco, qualcuno dei non pochi presenti in Italia poteva essere chiamato non a studiare come ha fatto Giarda, virgola, membro della commissione della spending review di cui vi ho letto l'articolo di legge che la istituiva nel 1981, 31 anni fa. Perfettamente si poteva fare dall'inizio di questo governo, ma io non voglio criticare, perché critico sempre, mi si dice, non voglio criticare Giuliano Amato che chiama adesso per darci l'indicazione su come mettere mano ai costi della politica e dei partiti, e tantomeno Francesco Giavazzi, che, sentito da noi amici abbastanza increduli che fosse stato chiamato come consulente esterno, ci ha detto, beh, insomma, Bonti mi ha chiesto di scrivergli un paper su le cose che avevo già scritto sul Corriere, io gli ho detto che lo farò a patto che loro mi diano i numeri, perché io naturalmente sono fuori dal governo e i numeri ce li hanno loro. Singolare metodologia apprezzabilissima, quella di aprire ieri il sito internet per chiedere a tutti i cittadini di indicare loro gli sprechi. Io sono contrario alla sola parola sprechi. Sprechi significa che su una spesa pubblica del 51% di PIL ci sono solo delle cosette di sovrapposizioni o di interessi particolari che non funzionano. Quando è al 51% di PIL e la spesa in welfare è meno della metà, ci sono interi comparti della pubblica amministrazione programmaticamente sfuggiti dal controllo e che in termini comparati sono inefficienti rispetto ad altri paesi, cioè producono molta più spesa e quindi molta più pressione fiscale a fronte di prestazioni inefficienti. L'intera metodologia delle acquisizioni di beni e servizi intermedi, cioè le forniture della PA, che da 15 anni sfugge regolarmente all'accentramento su piattaforma telematica, la Consip, con interventi ripetuti ogni anno in Parlamento per eludere e accrescere i soggetti che sono sottratti all'acquisto centralizzato su piattaforma elettronica, col principio che ogni invece centro di spesa deve farsi lui sui acquisti in Italia, è il classico esempio di quello che vi dico. I soli acquisti di forniture di sanità sono i 2/3 del totale della spesa del Fondo Sanitario Nazionale, per dirne uno, e sono aumentati, come ripetiamo ogni volta, del 50% nei 5 anni pre-crisi. Allora, qui ci sono interi comparti della PA da ripensare, non sprechi. Io mi limito a dire che credo che tutto questo faccia parte di una poco commendevole commedia per far vedere che il governo dei tecnici ha le buone intenzioni, che la politica, come puntualmente è avvenuto, ritira sulla testa e glielo impedirà, che gli italiani capiscano bene che a loro, ai loro occhi, c'è la buona volontà, ma ad impossibilia nemo tenetur. E io mi auguro di sbagliare, perché non sono un presuntuoso, non credo di potermi sostituire a nessuno, mi limito a fare le domande agli ospiti che sono qui oggi per parlare di questo tema, per vedere come la pensano loro e che cosa si aspettano in concreto da un meccanismo che a me sembra farraginoso, tardivo e che non dice agli italiani la verità. La verità è che ci sono alcuni milioni di italiani e molte decine di migliaia di imprese che negli anni sono stati abituati da un pessimo stato come tassatore, ma anche come spenditore, visto che non liquida i suoi debiti e le partite IVA, un pessimo stato regolatore, visto che fa aste truccate con prezzi e tariffe amministrate per amici degli amici. Ecco, ci sono milioni di italiani che in realtà si sono abituati a questo stato tassicodipendente, pessimo regolatore, pagatore, tassatore e regolatore, e il problema è che di fronte a questo dire il linguaggio della verità, cioè che si può diminuire di 5-6 punti di spesa corrente e pressione fiscale in 3 anni, significa impattare non sulla casta e sui partiti, che ci sono come in campo a difendere, significa impattare su un pezzo d'Italia che ci campa sulla spesa pubblica elevata a bassa produttività, ci campa perché è stato abituato a fare così dal pessimo stato. Ma questo è solo il provocatore Giannino che lo pensa. Gli ospiti, vediamo come la pensano loro. Abbiamo con noi oggi Michele Boldrin, che è in piedi dall'America, quindi ringraziamo per l'ora, è direttore del Dipartimento di Economia alla Washington University di St. Louis. Buongiorno e grazie, professor Boldrin. Buongiorno. Mario Baldassarri, senatore del Terzo Polo, presidente della Commissione Finanze di Palazzo Madama. Buongiorno, Baldassarri. Baldassarri non risponde e iniziamo con Boldrin. Allora, Boldrin, innanzitutto, che si aspetta da questa procedura e che cosa concretamente ne può venire secondo lei? Ma guardi, ha già detto un po' tutto lei dal punto di vista qualitativo e molti l'hanno già commentato, per cui non aggiungo la mia voce a quella di altri. Mi sembra un po' una foglia di fico l'intera cosa, per le ragioni dette. Gli studi c'erano, già da questo lavoro lo fa 30 anni, non si riesce a capire questo rituale, non si riesce a capire nemmeno perché Bondi, che fa il commissario, quando abbiamo un ministro, ha detto la cosa. E poi comunque l'entità della cosa è minuscola. Ora, questo non vuol dire che non si debba fare, sia chiaro. Le cose vanno fatte, infatti qui sarebbe il caso di stabilire subito un principio. Se uno guarda attentamente il bilancio pubblico italiano, fatta eccezione per due voci su cui torno più tardi, che sono fondamentalmente pensioni e interessi sul debito pubblico, il resto non c'è nulla che tagliando solo quella voce possa essere il silver bullet che ci risolve il problema. Quindi tutti i tagli, anche piccoli, 2 miliardi, 4 miliardi là, il governo sembra aver stimato 4,2 in questo caso specifico, vanno bene. Quello che io ritengo erroneo e francamente deviante, forse intenzionalmente tale, mi dispiace doverlo dire, è focalizzare questa enorme attenzione mediatica su questa revisione della spesa, non ho capito perché non riescono a dirlo in italiano, tralasciando altri aspetti invece che ci sono, altri tagli che potrebbero essere fatti anche nell'immediato o in tempi rapidi, e soprattutto nel fatto che vanno messi in moto dei processi di riduzione della spesa che, anche se non rendono frutti immediati nel giro di 6 mesi o un anno, in realtà dal punto di vista strutturale contano forse di più. Qui la cosa fastidiosa è voler dare l'impressione che questa operazione di revisione della spesa è l'unica cosa che questo governo può fare e poi il toccasana che dovrebbe risolvere tutto. Questo io lo trovo poco accettabile, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista economico. La sua opinione, professor Boldrin, conoscendo l'Italia, stando da fuori e avendo lavorato anche in paesi che sono alle prese con insomma manovre di rientro e condizioni economiche altrettanto sono più terribili, tipo la Spagna, ma come mai secondo lei l'Italia è quella dei paesi che hanno dovuto intraprendere manovre di correzione così energiche a essere invece quella in cui il più si fa attraverso l'aggravio di tasse rispetto a un governo ordinario e straordinario, non una volta ogni tanto per 2 miliardi o 4 miliardi dei diversi comparti della spesa corrente? Ma il perché, questo non lo so rispondere io, anche se è abbastanza chiaro nell'ambito politico. Abbiamo di fatto questo governo non ha nessuna capacità, io direi intenzione, di intaccare la fonte delle tasse, che sono alcune spese, alcuni comparti di spese troppo alti dello Stato italiano, e quindi ha deciso di risolvere la questione tassando il Paese. Da questo punto di vista sì, la risposta del governo italiano, del governo Monti, è anomala rispetto al panorama internazionale. Ora, mi faccio tornare un attimo indietro, perché sulla questione della spesa vi è un dibattito, a mio avviso, in Italia abbastanza distorto. Anzitutto c'è una fantasia che continua a girare, secondo cui tagliare la spesa sarebbe recessivo. Bene, aumentare le tasse, se davvero è recessivo, lo è altrettanto. Non c'è nessuna evidenza, se uno guarda il panorama europeo, che tagli seri della spesa pubblica siano particolarmente recessivi. L'ho dibattuto proprio pochi giorni fa con un collega. Se uno confronta per esempio le performance dell'Inghilterra con quelle dell'Italia e quelle della Spagna, si rende conto che a fronte di tagli della spesa molto più seri, molto più drammatici fatti in Inghilterra, i comportamenti dei tassi di crescita sono più o meno analoghi a quelli italiani, forse leggermente meglio. Quindi se davvero tagliare la spesa pubblica avesse questo effetto recessivo che molti vogliono implicare, avremo dei disastri in Inghilterra e avremo delle cose meravigliose in Italia, che non sta succedendo. In questo momento forse la situazione recessiva è peggiore in Italia che in Inghilterra. Quindi questo aspetto va eliminato. La interrompo solo per dare un dato a conforto di quello che sta dicendo. Ieri ci siamo divertiti, ma poco divertiti, a fare l'esame comparato degli andamenti di PIL 2000, fine 2011, con i dati ufficiali degli andamenti di PIL, quindi comprendendo anche poi i 4 anni della crisi diversa, tra paesi, Italia da una parte e dall'altra parte Spagna, Irlanda, alle prese con severi programmi di rientro, ma entrambi caratterizzati da una caratteristica di pressione fiscale e spesa molto diversa dalla nostra, e dalla stessa Francia. Allora, il dato è che se facciamo il paragone 2000-2011 di quanti punti di PIL l'Italia ha incamerato in meno rispetto a loro, noi abbiamo nel complesso 11 punti di PIL meno della Francia dal 2000 al 31 dicembre 2011, e ne abbiamo 18 rispetto all'Irlanda e 22 rispetto alla Spagna, al netto della botta. E non abbiamo speso di meno, cioè, giusto? Appunto. Quindi questa fantasia era francamente tolta di mezzo al dibattito, altrimenti è un disastro, non si arriva nessuna parte. È francamente irritante, io lo sento ripetere continuamente, è tuttora il tema dominante in grande parte degli editoriali che leggo, ed è francamente irritante per la sua ipocrisia, perché è falso a fronte dei dati. Se fosse vero che la spesa pubblica fa crescere, come tutti insistono, specialmente la sinistra, l'Italia sarebbe il paese più ricco del mondo. Esatto. Invece non lo è. Quindi insomma, dopo decine di anni di questa evidenza, sarebbe il caso da dire. vorrei tornare alla questione dei tagli. Io ho provato in una serie di editoriali a fare un po' di conti, perché vede, alla fine è vero che se lei toglie l'elemento pensioni, e di nuovo lo sto lasciando per ultimo per controverso, ma dopo ci torniamo, però se lei toglie l'elemento pensioni, l'elemento interessi, è difficile con una singola voce tagliare più di mezzo punto, 0,8% del prodotto interno lordo. Il punto è però che se ne metti assieme 4, hai fatto 3 punti. E 3 punti sono un taglio sostanziale che si potrebbero trasferire in 2 punti di riduzione delle imposte sulle imprese. Allora, ci sono delle cose che per qualche ragione questo governo ha deciso di ignorare e ha deciso di evitare di mettere il Parlamento davanti alle proprie responsabilità. La prima, mi dispiace, io insisto su questo non perché è populismo, ma perché è una questione sia di giustizia da un lato, sia di efficienza del governo dall'altro. La prima cosa dove bisogna cominciare a tagliare è il costo dell'apparato burocratico dello Stato e della politica. Applausi. Qualcosa, non è vero, perdono, mi dica. Applausi. La qualcosa, e qui c'è un elemento di ipocrisia di nuovo al dibattito, non è vero che si limita alla Camera, al Senato, al Quirinale e diciamo ai grandi organi dello Stato presenti a Roma, ma si estende a tutti i ministeri, alla dirigenza ministeriale, alle dirigenze e agli apparati delle regioni e delle giunte regionali, alle decine, centinaia, migliaia di aziende pubbliche di servizi distribuite sul territorio, nelle quali l'alta dirigenza italiana di ogni tipo guadagna cifre che sono dell'ordine di 3, 4, 5, fino a 10 volte, letteralmente 10 volte superiori a quelle dei funzionari, dirigenti pubblici in posizioni analoghe in paesi con redditi simili ai nostri, come la Spagna o la Germania. Ora, quando uno fa i conticini lì attenti, si rende conto che taglia di qua, taglia di là, un 4 miliardi di risparmi da questa cosa si possono in realtà tirare fuori, che è più o meno quello che questo governo stima di poter risparmiare dalla revisione della spesa, che non so perché, ripeto, continua a chiamare spending review come se non ci fosse la parola in italiano. Allora, all'improvviso il risparmio diventa il doppio se si vuole cominciare a ragionare. Ora vedremo cosa farà Giavazzi sulla questione dei sussidi alle imprese, ma anche lì, a tagliarne anche solo metà, stiamo parlando di una cifra attorno ai 10 miliardi, che comincia a essere già una percentuale leggermente più alta del prodotto interno lordo, siamo al 0,7-0,8%. Se lo sommiamo a quelli precedenti stiamo avvicinandoci al 2%. Ecco, allora vede, io non riesco a capire, dopo 6 mesi di questo governo in piedi e dopo avendo loro avuto, specialmente tra novembre e dicembre, una situazione di emergenza tale che gli permetteva di avanzare queste proposte in maniera immediata. Ed essendo queste cose note e banali, io non esattamente come Giavazzi, noi Giavazzi non sto al governo, non ho accesso corrente ai dati, sono solo un osservatore che da lontano osserva queste cose. Queste cose le sapevo anche 6 mesi fa, non avevo bisogno di aspettare 6 mesi per scoprirle, le sapevo anche un anno fa. Ecco, allora stupisce e fa riflettere politicamente di perché mai questo strano governo abbia deciso di stare zitto su questi temi, di continuare a rinviarli e di muoversi adesso di nuovo con questa grande fanfara mediatica solo attorno alla questione della revisione della spesa. Io lascio che gli ascoltatori facciano le loro inferenze, però a me la cosa vista da qui puzza alquanto, mi segnala una scarsa volontà di andare a toccare in realtà alcuni gangli dello Stato italiano di come funziona, che sono quelli vitali, e che o ben si toccano o rimaniamo il paese che siamo, cioè un paese, come ha sottolineato lei all'inizio, che non solo spende molto in spesa pubblica, ma lo spende soprattutto malissimo. Malissimo, esattamente. Allora, questo è la questione forse principale. Io devo chiederle, perché lei due volte nel suo ragionamento ha fatto un inciso dicendo lascio la componente di spesa previdenziale alla fine. Qualcuno è rimasto curioso perché ci sono 3 sms che sono arrivati dicendo nel senso, cioè Boldrin cosa dice? Pensiamo ulteriormente. Guardi, la questione è che anche dopo la riforma a questa recente, le previsioni anche le più ottimistiche, tra l'altro sono fatte con le solite appunto parametri fantasiosi su crescita della produttività del lavoro, crescita del reddito del lavoro, eccetera, eccetera, che sono tutti sempre lì, che l'Italia tornerà un giorno miracolosamente apparentemente a crescere al 2%, cosa che non fa da 15 anni. Comunque anche le previsioni più ottimistiche prevedono una spesa pensionistica sul PIL attorno ai 14 punti e mezzo, quasi 15. Lei capisce che questo ci mette 5 punti di PIL fuori dal resto d'Europa. lasci stare l'Inghilterra, gli Stati Uniti, che hanno un sistema pensionistico diverso, lasci stare l'Olanda, per carità, sono tutti liberisti impazziti, infatti gli anziani pericolosi, esatto, muoiono di fame, c'è cioè un disastro tremendo. Lasciamo stare questi. No, sta scherzando, professore, non vorrei che qualcuno ci credesse. Stiamo scherzando. Ecco. Sto facendo. Ma prendiamo appunto paesi come la Spagna, paesi come la Francia. In Spagna il rapporto pensioni-PIL è attorno al 9,5%, 10% di PIL, e si stanno giustamente ponendo problemi anche loro di ridurlo un po', perché si rendono conto che sia un po' esagerato, non molto sostenibile, hanno dei pensionamenti, hanno appena ha ricominciato a ritardare l'età pensionistica, insomma si stanno rendendo conto che certo è bene pagare delle belle pensioni, sarebbe bello andare tutti in pensione molto presto e vivere lautamente, però è un lusso che va proporzionato al reddito di un paese, non si può massacrare i giovani per trattare troppo bene gli anziani, mentre noi questo problema non ce lo poniamo. Ora io mi rendo conto che dire dalla mattina alla sera tagliare le pensioni non si può, però mi permetta di fare del populismo, posso? Deve. È legittimo che gli italiani debbano accettare che Giuliano Amato e tanti come Giuliano Amato prendano 300.000 euro all'anno di pensione. Già. Mi rendo conto che è una frase effetto facile, eccetera, eccetera, che uso Amato come simbolo, e che per carità quelli che prendono le pensioni come Amato sono probabilmente poche dozzine. Però esiste tutta una struttura pensionistica di pensioni ricevute in tenera età e continuamente mantenuta, che va cominciata a toccare, va toccata francamente smettendo di indicizzarle nel modo più totale all'inflazione, probabilmente alcune riducendole in maniera drastica. Esiste, c'è poco da fare, esiste la necessità di fare una revisione drastica, sistematica di taglio delle pensioni di invalidità e di eliminarle per davvero metà di queste. Non continuare a raccontarti che sì, che è difficile, che qua, che là, perché c'è un fatto, abbiamo 5 punti di PIL di pensioni ed è una cifra enorme, quindi mi dispiace, le pensioni vanno, lo ripeto, tagliate, mi rendo conto che questo sembra sanguinario, ma vanno tagliate, non in maniera discriminata, ma vanno tagliate in proporzione agli anni di contribuzione, in proporzione all'età delle persone. Bisogna forse anche cominciare a riconoscere che persone di 80 anni, c'è cioè un padre che ne ha 84, forse possono, proprio perché il loro livello di consumo è più basso e le loro spese fondamentali sono fondamentalmente di tipo sanitario, che vengono fornite più o meno gratuitamente dal sistema pubblico, forse possono accettare riduzioni piccole, anche di 100 euro al mese di pensione, in maniera meno dolorosa di quanto lo possa accettare uno di 60. Mi rendo conto che dire queste cose è pesante, però guardi, la realtà quella è, cioè, occorre riuscire a guardarle in faccia. Quindi sul sistema pensionistico, a mio avviso, il paese deve ritornare a riflettere, deve ritornare a tagliare, perché non i 5 punti di differenza, ma un paio di punti addizionali nell'arco dei prossimi 10 anni vanno portati a casa. Allora io ringrazio Michele Boldrin e lo restituisco, giusto sono che gli abbiamo sottratto visto la differenza di fusi. Io sono integralmente d'accordo con quello che ha detto, aggiungo due cose perché poi andiamo in pubblicità e poi torniamo col professor Mario Baldassarre, col senatore Mario Baldassarre. Io di mio ci metto, siccome sono più provocatore, il fatto che il mio sospetto è che il fattore Quirinale per il professor Monti spieghi gran parte dei ritardi di questo meccanismo, quindi proprio lo dico esplicitamente, tanto non c'è questione, è diventato un gioco politico rispetto ad altri interlocutori politici. La seconda cosa è che una politica che avesse parlato chiaro sull'ammontare della cosa da fare, sapendola fare senza chiedere scuse, e avendo cominciato, come ovvio, dalla parte che Michele Boldrin ha indicato, cioè quella dell'intero impianto dei costi politici e amministrativi delle istituzioni a ogni livello, allora avrebbe anche il titolo, poi un maggior titolo di credito di fiducia agli italiani per dire: guardate, malgrado la riforma delle pensioni con cui vi abbiamo innalzato anche di 6 anni il tetto per maturare il diritto al trattamento previdenziale, pensiamo che su questo e questo e questo ci sia ancora da fare, perché siamo comunque fuori linea, a cominciare dalle pensioni altissime e a cominciare dallo scandalo vero delle finte pensioni di anzianità usate come ammortizzatore sociale nelle mani dei sindacati a livello locale di medici compiacenti. Sì, la penso così. Il problema è che quanto più invece si evita la questione dei costi politici amministrativi proponendo sfrondature energiche e risolute nell'ambito di un punto e più di PIL, quanto più questo non si fa, tanto più la reazione degli italiani è che i colpiti, cioè coloro, gli esodati, i pensionati, i disoccupati eccetera, dicono: è solo con noi che ce l'avete. E la domanda che faccio io è così sbagliata la loro reazione? A me purtroppo sembra giusta e comprensibile e A questo innesto anche quello a cui diamo voce con la nostra campagna, l'esperati mai, @radio24.it, le migliaia di lettere che continuano ad arrivare di piccola impresa travolta da uno Stato che giustamente pretende e poi non ti paga, non trovi i meccanismi per ricreditiva, da uno Stato che a questo punto continua a dire che l'unico mantra è la lotta all'evasione fiscale, sacrosanta, perché le state vanno pagate, però non è capace con la sua macchina pubblica di un esame davvero individuale, discrezionale, non discrezionale, ma secondo criteri manifesti, per cui è meglio evitare l'impresa morta che non sarà più contribuente e che non darà più lavoro, piuttosto che incalzare automaticamente con procedure che non guardano in faccia a nessuno sulle capacità di pagamento, senza negare poi il fatto che bisogna pagare quel che bisogna pagare. Se sommate questo alle banche e al fatto che lo Stato per primo fa diventare tutti cattivi pagatori, ecco il rischio di una frattura vera sulla piccola impresa italiana, che è quello che tentiamo di contrastare. Grazie al professor Boldrin. Eccoci tornati per questa seconda parte la trasmissione dedicata alla revisione di spesa affidata a un grande tecnico che però di bilancio pubblico non ne sa niente, Enrico Bondi, con due coadiutori, amato per la parte politica, che lì ne sa parecchio, a dire la verità, per la parte dei partiti delle istituzioni, e poi Francesco Giavazzi per la parte dei tagli alle imprese, come ha più volte proposto. Senatore Baldassarri, che si aspetta da questa procedura? Qual è il suo giudizio, controproposte e osservazioni? Ma io partirei da una affermazione importante che ha fatto Michele Boldrini nella prima parte, che è una cosa nota e arcinota nel campo degli economisti in tutto il mondo, e cioè aumentare le tasse è enormemente più recessivo che non tagliare la spesa. Cioè, questa è un'acquisizione dell'analisi economica degli ultimi 20 o 30 anni. Aggiungerei all'affermazione di Boldrin un'altra, che per di più tagliare la spesa nei comparti e nelle voci dove ci sono sprechi, malversazioni e corruzioni, e allora è ancora meno recessivo, anzi libera risorse per sostenere la crescita. Partiamo da qui. Dopodiché partirei dai dati del documento di economia e finanze che è stato pubblicato dal governo due settimane fa. Allora, lì c'è scritto che cosa? Che grosso modo nel 2011 abbiamo avuto una spesa complessiva di 800 miliardi e entrate totali, quindi il totale delle tasse raccolte, di 740 miliardi, e nell'anno appena trascorso, devo dire, abbiamo avuto un deficit di 60 miliardi. Sempre guardando quei dati, al 2014, quando azzereremo aritmeticamente il deficit pubblico nel 2014, questo azzeramento di deficit avverrebbe con 91 miliardi in più di entrate, cioè di tasse. Di questi 91 miliardi in più di tasse, 61 li useremo appunto per azzerare il deficit. Gli altri 30 miliardi in più di tasse serviranno per finanziare 31 miliardi in più di spesa corrente da qui al 2014 e un miliardo in meno di investimenti pubblici. Per cui il dubbio che viene fuori è: ma il programma del Ministro dello Sviluppo, che prevede opere pubbliche, infrastrutture, eccetera, chi lo finanzia se rispetto al 2011 avremo addirittura un miliardo in meno di investimenti infrastrutturali? È ovvio che in queste condizioni ha ragione Michele Boldrini a porre un dubbio circa le prospettive di crescita che il governo ha messo a base di questi conti sulla finanza pubblica, e cioè una recessione del meno 1,2% quest'anno, ma una ripresa della crescita modesta, ma più 0,5 l'anno prossimo. E il rischio è che invece abbia ragione di più il Fondo Monetario Internazionale, che quest'anno ci assegna un meno 2% e l'anno prossimo ci assegna un meno 0,3-0,4%, cioè un ulteriore meno nel 2013. Al di là dei numeretti, questo vuol dire una cosa molto importante per chi ha responsabilità politica, che in entrambi i casi, che abbia ragione il governo meno pessimista o il Fondo Monetario un po' più pessimista, vuol dire semplicemente che il reddito italiano del 2007 si recupererà come livello in termini reali nel 2016, nell'ipotesi del governo meno pessimista, e nel 2018 nell'ipotesi un po' più pessimista del Fondo Monetario Internazionale. È un po' quello che lei ha detto poco fa, facendo il confronto tra il 2000 e il 2010-2011, cioè in quel decennio noi abbiamo perso 10 punti di crescita verso la Francia, 18 punti di crescita verso gli altri paesi europei e quant'altro. Siamo cioè ad una situazione in cui vengono al pettine i nodi, come abbiamo visto già l'autunno scorso con la crisi sui mercati finanziari, lo spread eccetera, ma vengono al pettine i nodi di 10 anni di balle sulla finanza pubblica, di balle sull'uscita dalla crisi, coperte in realtà da aumenti di tasse, che sono la pressione fiscale è aumentata di 5 punti tra il 2001 e il 2011-12, non tagli di spesa corrente, anzi addirittura sperperio continuo di spesa corrente e taglio a metà degli investimenti infrastrutturali. Questo è il nodo che deve affrontare il governo Monti. Posso fare una domanda secca? Perché una delle conseguenze delle cose che ha detto, importantissima, è che secondo gli stessi documenti contabili presentati dal governo, la spesa corrente continua a crescere, a un tasso certamente inferiore a prima, ma continua. Perché secondo lei uno come Giarda nelle interviste in queste due settimane ha detto sempre no, l'eroica impresa di aver stabilizzato oramai in questi due anni e aver stabilizzato negli anni a venire la spesa pubblica, quando sono i documenti del governo a contraddirlo? No, ma guardi, qui c'è una verità e una mistificazione, cioè la spesa totale nel 2010 e 2011 si è fermata attorno a 800 miliardi di euro, ma all'interno ci sono stati ulteriori dirompenti aumenti di spesa corrente con, come ho appena detto, taglio a metà degli investimenti infrastrutturali. Il totale della spesa è stato limitato a 800 miliardi di euro, che comunque è un importo gigantesco perché rappresenta quasi il 52% del prodotto interno lordo. Allora, quando lei ha un totale di spesa così dirompente, fermarlo a quel livello è irresponsabile perché bisogna farlo tornare ben sotto il 50%. Per di più, la composizione di quel risultato è che la spesa corrente ha continuato a crescere e lo stop alla spesa totale è avvenuto tagliando gli investimenti produttivi. Allora lei gli investimenti infrastrutturali. Sono i dati ufficiali. Allora su questa base io non la voglio imbarazzare perché ovviamente il suo partito sostiene ufficialmente il governo, però le devo chiedere, siccome lei da questo si batte, noi le invitiamo almeno una volta ogni tre settimane a ripetere l'aggiornamento di ciò che fa in Parlamento per tentare di aprire le orecchie del governo pro tempore, di quelli di prima maggior ragione e di quelli di adesso su questi temi, però le chiedo, l'impressione che ha del perché siamo alle solite, cioè c'è sta melina, dopo cinque mesi e mezzo un altro incarico fuori, ma è la politica che prevale anche nei tecnici, qual è il motivo per cui neanche loro, sapendo tutto quello che sappiamo noi e sapete voi molto più titolati, non hanno iniziato esattamente innestando questa marcia sin dall'inizio, secondo lei? Ma intanto Giannino, lei sa che sia lei che il sottoscritto da 10 anni diciamo esattamente le stesse cose, ma per non ripercorrere la storia della patria. Ma uno ha l'impressione di essere scemo, capito? No, faccio l'esempio più recente, due esempi. Il recente decreto semplificazione fiscale e l'ancor più recente documento di economia e finanza. Bene, nel decreto fiscale, io ero relatore, e 25 senatori del terzo polo, e io li ho sostenuti come opinione, si sono permessi di dire, visto che c'è questo decreto fiscale che è una manutenzione ordinaria, a parte poi l'introduzione dell'IMU e delle altre cose, va bene, è opportuno approfittare di questo treno in corsa per fare una manovra di tagli di spese e di sostegno alle famiglie, alle imprese, agli investimenti infrastrutturali per sostenere la crescita. E su questo sono stati presentati 3 precisi emendamenti. Bene, questi 3 precisi emendamenti non hanno trovato il consenso di PD e PDL, ma per non esprimere politicamente questa non volontà di procedere su quella strada, si sono tutti rifugiati dietro un parere della Ragioneria dello Stato che dichiarava questi emendamenti inammissibili ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, cosa, cioè perché avrebbero creato ulteriore deficit pubblico, cosa che è tecnicamente sbagliato e che può rappresentare, a mio parere, come ho dichiarato in aula, un falso ideologico, perché emendamenti che dicono taglio queste voci di spesa, i risparmi che ottengo li metto in un fondo e quando sono certo di avere le risorse in questo fondo riduco le tasse alle famiglie e alle imprese e aumento gli investimenti infrastrutturali, qualcuno deve spiegare cosa c'entra tutto questo con l'articolo 81 della Costituzione. E qui arriviamo a uno dei punti fondamentali, cioè la ragioneria generale si è oramai impadronita del processo di dire sì e no coi bollini verdi e blu e si è impadronita anche, diciamo così, dell'indirizzo politico. Io ho questa impressione che i vertici tecnici o amministrativi dello Stato, per incompetenza crescente dei politici all'economia negli anni, hanno finito per assorbire loro la funzione di essere loro i custodi del perimetro, loro scrivono le norme, loro in Parlamento dicono a proposte come queste, no, voi siete fuori dall'articolo 81. Intanto loro hanno creato il meccanismo per cui la spesa corrente è cresciuta enormemente, inseguita le tasse e continua a crescere. Eccoci qua, torniamo in studio, ci sono i Dorsa, gli ascoltatori che chiedono ma il senatore Baldassarri non era nel governo che sosteneva Berlusconi negli anni dell'esplosione della spesa corrente delle tasse, dov'era e perché adesso pretende di dirci? Vi dico che siete distratti, perché il senatore Baldassarri queste cose, avendole sempre sostenute, è finito fuori dagli incarichi che aveva il Ministero dell'Economia all'inizio, non in questo governo, nell'ultimo Berlusconi, ma anni e anni prima, ed è finito per apparire all'interno della compagine del centrodestra come un lunatico che, come tutti coloro che dicono la verità, spesso fa la parte del matto eccentrico. Quindi mi dispiace dovervi invitare a documentarvi meglio. Parla, è uno dei pochi che può dirlo, perché lo ha sempre detto. E il governo Berlusconi negli anni ha avuto il torto di non dare retta a chi diceva abbiamo preso i voti dicendo meno spesa e meno tasse e adesso bisogna farlo. Ecco, lui era, siccome è uno dei pochi, pochissimi, che ha continuato a dirlo, io mi permetto di considerarlo in grado di continuare a parlare. Tutti sono in grado di parlare, io non faccio giudice di nessuno, però dal mio punto di vista chi l'ha detto prima ed è stato inascoltato ha maggior ragione, ha un titolo per essere ascoltato anche adesso col quadro politico è cambiato. Ma che ci possiamo aspettare, Baldassarri? Ma intanto ricordo che quando anni fa dicevo queste cose da dentro il governo, da dentro quella maggioranza di centrodestra e da dentro il PDL, fui definito il dottor Stranamore, ministro dell'economia. Appunto. No, ma volevo segnalare agli ascoltatori, lei le sa perfettamente, due paradossi. Il primo paradosso è che le proposte che abbiamo presentato come terzo polo un mese e mezzo fa nel decreto fiscale, sono state presentate nei 3 anni precedenti, ogni volta, in ogni finanziaria. Esatto. E il paradosso sta in questo, che nei 3 anni precedenti è stato il Ministero dell'Economia politicamente a dare parere contrario, ma la Ragioneria Generale dello Stato le ha sempre approvate ai sensi dell'articolo 81, questo è il primo paradosso. Il secondo paradosso, che politicamente è più rilevante, è che dopo aver bocciato nel modo che abbiamo detto prima quegli emendamenti di tagli di spesa, tagli di tasse e aumento di investimenti per sostenere la crescita e quindi ottenere meglio il rigore finanziario e il pareggio di bilancio, 20 giorni dopo, cioè pochi giorni fa, nel documento di economia e finanze è stato approvato con larghissima maggioranza da parte di tutte le forze politiche un ordine del giorno che sostanzialmente incorpora le proposte che avevamo fatto noi come terzo polo sul decreto fiscale 2 settimane prima, sulle quali la Ragioneria Generale aveva detto niente articolo 81, esatto, vabbè, è così. E impegna il governo a realizzarle. Mi faccia anche ricordare, sempre a beneficio degli ascoltatori, non siamo in presenza di un trasformista saltafossi, ve lo posso garantire, e andate a vedere la conferma, altrimenti che mi cada la lingua se non è così. Tanto è vero che tra le proposte che negli ultimi anni il senatore Baldassarri ha fatto di individuazione dei tagli di spesa per molte decine di miliardi di euro, proponendo col meccanismo salva deficit che avete sentito, che l'anno dopo ci siano restituzioni fiscali subito. C'è esattamente il comparto dei tagli energicissimi ai trasferimenti a fondo perduto alle imprese, esattamente quello che oggi si chiede con un paper da chi è esterno del governo a Francesco Giavazzi di nuovo tornare a far tornare l'attenzione del governo, che queste cose le sa benissimo, perché c'è chi in Parlamento da anni ha proposto, quantificando esattamente l'intervento su questo. Questo per dire, cari ascoltatori, oggi avete sentito due voci diverse, il professor Baldassarri da anni impegnato in Parlamento, è oggi il terzo polo, prima era nel centrodestra, è un sostenitore del governo, questo non gli fa velo nel dire che bisogna cambiare marcia. Il professor Boldrin sta in America, insegna in Spagna oltre che in America, e anche lui è uno che dice si fa così così. Io sono l'ultimo dei cretini, però non accetto molto facilmente, di fronte a una pressione fiscale che consente ancora oggi al Presidente del Consiglio di additare chi dice che è possibile meno tasse come o un difensore degli evasori o un superficiale demagogo, io respingo al mittente chi dopo sei mesi ci prende per i fondelli. Baldassarri deve usare un altro linguaggio, Boldrin usa un altro linguaggio, io lo uso diretto, perché le lettere che noi continuiamo a ricevere di migliaia e migliaia di piccoli imprenditori vessati, piegati, umiliati, rispetto ai quali noi dobbiamo prenderci la briga di scrivere privatamente e di telefonare per dire reggete, per Dio, non uccidetevi, pensate che comunque la vita viene prima, mentre al governo se ne fottono, ecco, questa maniera di fare non l'accetto neanche dall'augusto, altissimo, competentissimo professor Monti. Mi dispiace chi è diventato così egotico in pochi mesi da essere come un Berlusconi da questo punto di vista, proprio lui che evoca il passato, giustamente, non ripetere, da questo punto di vista dovrebbe abbassare i toni, dare un pochino di quelle risposte concrete che chi ha studiato questa dannata meccanismo di uccisione del paese che è la spesa pubblica e la tassazione è in grado, con molta più competenza e con un tono molto meno elevato del mio. Ascoltateci, cari ascoltatori, noi non proponiamo gente che non sa, questa gente c'è. Bisogna semplicemente metterla in condizione di fare, senza siti. Non siete voi che dovete dire, ditelo tutti, o meglio, mandate milioni di siti dicendo tagliate e vergognatevi. Appuntamento a domani.